2005, sono le 9 e 12 minuti, sono in ritardo, come spesso mi accade il mercoledì, e sulle note di Chris Potter, pianista emergente, diciamo, anzi direi ormai affermatissimo, però della nuova leva, inizia forse uno degli ultimi pendoliri, mi dispiace dirlo, ne ho già parlato un po' con altri colleghi, amici, podcaster. È un format, questo di pendoliri, che si sta un po' esaurendo. Credo in generale che il podcast non nasca per esaltare le caratteristiche personali e intimistiche dell'audioblog, semmai il podcast ha la sua vocazione nello sviluppo di interessi e speriamo anche di competenze di nicchie, quindi vorrei un po' anche smettere di parlare dei fatti miei e vedere se c'è qualcosa di utile soprattutto che posso raccontare in un microfono. Ed è per questo che sto sviluppando un nuovo format, un nuovo progetto, per usare una parola forse troppo grande, che è appunto quello di strutturare una trasmissione magari con cadenza non più quotidiana ma settimanale, in cui possa dire qualcosa di utile. Bisogna anche vedere se lo troverò, l'argomento e la competenza, però ci sto pensando, non voglio andare oltre, anche perché purtroppo c'è un punto interrogativo, che è quello del tempo che avrò a disposizione. Uno dei motivi di questa decisione è che forse breve non sarò più un pendolare, che da una parte è un bene, dall'altra potrebbe anche significare dover lavorare almeno il doppio e quindi non avere più il tempo per queste attività che, come si dice con una brutta frase, lasciano il tempo che trovano. Anche se c'è un grande entusiasmo, devo dire, sia individuale per quanto mi riguarda, sia in generale nel mondo del podcasting, continuano a crescere queste trasmissioni, sia di numero che di qualità. Ho sentito per esempio gli ultimi podcast di Da Capo al Fine, che è a questo punto, credo, mi sembra di poter dire tecnicamente il numero uno in Italia, anche perché sviluppa un interesse di nicchia, la musica colta, un interesse del tutto trascurato dai podcaster tradizionali, quindi ci inchiniamo di fronte a questo vero e proprio piccolo gioiello che ci è stato regalato. E proprio visto che parliamo di musica, vorrei anche rispondere a chi mi chiede come mai c'è sempre in sottofondo la musica jazz. Allora, innanzitutto, su Pendo Deliri, semplicemente questa è la musica che esce dalla mia autoradio la mattina, e quindi non c'è nessuna velleità particolare, nessun anche piano editoriale rispetto a questo, è semplicemente quello che ascolterei normalmente in auto, infatti è del tutto casuale la scelta dei brani. Adesso c'è Chris Potter, ma normalmente ascolto musica abbastanza recente, dopo gli anni 60, nel jazz dopo gli anni 60 si parla di musica recente, vorrei chiarirlo per gli amanti del pop rock. In questo momento il CD ha deciso di fare i capricci, evidentemente anche lui si è stufato di questo format e quindi forse è meglio però di saltarci qui.